Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, siamo pronti, sono le 11:10, c'è il nostro sommario, ma in regia la parte tecnica c'è Pietro Alla Corte e in redazione come sempre Laura Vanossi, andiamo. Zuccheri e grassi, nemici o amici? Giornata del malato, donare gli organi, la scelta nella carta d'identità. Zuccheri e grassi, sono queste le due parole che cerchiamo di cancellare quando pensiamo, vorremmo o ci mettiamo a dieta. Molti di noi infatti li vivono come i diretti responsabili dell'aumento di peso, altri li guardano con timore perché pensano che siano in grado di far alzare il colesterolo e la glicemia, che come tutti sappiamo sono spie importanti del nostro stato di salute. Allora io direi, se voi siete d'accordo, di liberarci di tutti i luoghi comuni che nel corso della nostra vita abbiamo raccolto su di loro e cercare di capire chi sono. Insomma, quello che vi propongo oggi è di conoscere più da vicino gli zuccheri e i grassi, che sappiamo insieme alle proteine sono i componenti che permettono al nostro corpo di funzionare bene, e quindi di conoscerli bene per inserirli correttamente nel nostro stile alimentare. State pronti perché avrete delle belle sorprese. Intanto non è una sorpresa l'invito a chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24. Oggi in studio è tornato a trovarci il professor Francesco Saverio Dioguardi, professore associato in medicina interna alla cattedra di nutrizione clinica dell'Università di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Bentornato. Professore, noi nei confronti di zuccheri e grassi abbiamo un rapporto un po' contraddittorio, perché sicuramente li viviamo come alimenti piacevoli, gli zuccheri li identifichiamo con i dolci, i grassi, a me viene in mente una bella frittura, un condimento generoso, ma al tempo stesso li temiamo. E allora si finisce che magari si mangia una bella fetta di Sentono Re e poi viene il senso di colpa che quasi rimane, no? Sullo stomaco. Quindi strani, no? Questi due. Sulle proteine invece non abbiamo questa duplice, no, impressione. Io sono contrario ai sensi di colpa, per prima Bravo. Cosa. Uno Questo che si mangia Sentono Re, almeno che se la goda. Ecco, il vero problema è quanta se ne mangi anche di Sentono Re. Cioè, zuccheri e grassi sono necessari a noi per vivere. Sì. Il vero problema è che devono essere introdotti in maniera equilibrata. Purtroppo equilibrio è una parola molto difficile, è una cosa molto difficile da fare, mantenersi in equilibrio. È facile eccedere. Professore, quindi misure d'equilibrio lo impareremo strada facendo, ma stavo pensando che, proprio come è vero che non è tutto oro quello che luccica, è altrettanto vero che non tutti gli zuccheri sono solo nei dolci. Bravissima Nicoletta, questo è un problema chiave. Molte persone pensano che siano i dolci l'unica fonte di zuccheri, e invece zuccheri sono anche il pane, la pasta e la frutta. Alcune verdure, o meglio, alcuni vegetali, le verdure sarebbero un'altra cosa, le patate per esempio sono una fonte importante di carboidrati, le carote sono una fonte importante di zuccheri o carboidrati, che dir si voglia. Ecco, zuccheri e carboidrati è la stessa cosa. Carboidrati è la maniera tecnica che noi usiamo per definire gli zuccheri. Lo zucchero per antonomasia è quello che si mette nel caffè, per certo. intenderci, e viene usato anche per fare i dolci. Anche per i grassi però possiamo fare, professor Dioguardi, una precisazione. Ormai tutti sappiamo che ci sono grassi animali e grassi vegetali, ma al di là della natura del tipo, svolgono le stesse funzioni? Allora, intanto cerco di non essere troppo noioso. Grassi animali, grassi vegetali. C'è uno che dice così non è noioso. Perché... ti ringrazio molto. Grassi animali, grassi vegetali non significa necessariamente dire cose diverse. O meglio, i grassi animali sono praticamente gli unici a contenere colesterolo. Sì. Che, come abbiamo visto, ne abbiamo parlato appunto in una trasmissione, è un grasso che non può essere bruciato per fare energia, può solo essere eliminato. Indispensabile alla vita, ma non serve a fare energia. Esiste poi un'altra famiglia di grassi, sì, che si chiamano acidi grassi o trigliceridi, perché questi acidi grassi, se montati su uno scheletrino che si chiama glicerolo, glicerina, formano i trigliceridi, cioè i grassi di deposito nel nostro corpo, sono anche questi indispensabili e per fare energia e per costruire altre sostanze, per esempio il colesterolo che ci serve, per esempio gli ormoni e quanto noi abbiamo parlato. Perché servono i grassi nella dieta? In parte per farci risparmiare zucchero a fare energia e in parte anche per veicolare all'interno del nostro corpo alcune vitamine che si dicono liposolubili. Liposolubili, appunto, si sciolgono i grassi e noi le assorbiamo coi grassi. Professore, però abbiamo introdotto quindi un terzo soggetto. Abbiamo parlato di trigliceridi, però se chi dice zucchero pensa alla glicemia, chi dice grasso solitamente pensa al colesterolo, i trigliceridi dove li mettiamo? Ecco, i trigliceridi sono una sostanza che può essere introdotta, un alimento che può essere introdotto così come è presente nel nostro corpo, appunto in alcuni cibi. I formaggi, per esempio, sono molto ricchi di trigliceridi, le carni sono molto ricche di trigliceridi nella loro parte grassa, ma tutti gli zuccheri che noi non si consumasse per fare energia, tutti i zuccheri che mangiamo e non bruciamo vanno a finire inesorabilmente in trigliceridi, cioè nella ciccetta. Eccoli lì. Senta, vogliamo dare qualche esempio per capire un po' quanto conti, oltre che la qualità, la quantità, quindi la grammatura e le calorie? Ecco, allora, intanto gli zuccheri hanno una capacità di sviluppare calore se bruciati, questo significa calorie, sì, che è circa la metà rispetto ai grassi. Nel nostro corpo non è esattamente la stessa cosa. Una delle grandi rivoluzioni che sta per avvenire, avverrà in quest'anno, è che finalmente verrà stabilito che noi si deve imparare a parlare di quantità di energia prodotta nel nostro corpo, e da questo punto di vista i grassi sono meno efficienti rispetto agli zuccheri. Meno efficienti, che non vuol dire che non servono, esatto, o che non sviluppino energia. Allora, 800-24-0024, questo è il nostro, la combinazione vincente. Un ascoltatore mi ha detto che l'ha giocata e per un pelo vinceva la lotteria, però si era dimenticato, sì, che fortuna. No, peccato per lui, per, che non l'abbia vinta. Infatti, 349-238-6666, professor Dioguardi, se noi impariamo oggi per bene come utilizzare questi grassi, come utilizzare gli zuccheri, e quindi diciamo zuccheri, diciamo quelli semplici e quelli complessi, quindi parliamo anche dei carboidrati, alla fine quanto ci guadagniamo? Ci guadagniamo in chili di meno, in salute? Che cosa ci propone? Perché noi stiamo attenti, ma vogliamo una posta. Nicoletta, guarda, è una domanda davvero molto difficile. C'è moltissimo che stiamo studiando e si sta imparando da questo punto di vista. Guarda, imparare a mangiare bene a quanto pare allunga la vita e allunga la qualità della vita, perché alla fin fine non è quanto si vive, ma vivere bene che è davvero importante. Mangiare in maniera più equilibrata significa vivere più a lungo, ma soprattutto vivere meglio. Allora, pronti a raccontarci quello che mangiate, quando mangiate, perché anche il momento della giornata è importante. Noi siamo qua, il professor Dioguardi a vostra disposizione, chiamateci e scriveteci. Una mela al giorno. Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata del malato e io approfitto dell'occasione per parlare di chi vive accanto al malato, di chi, pur non vivendo la malattia in prima persona, sulla propria pelle, se ne trova segnato profondamente. Penso ai familiari che devono sostenere, accudire, sperare, sorridere quando invece la situazione li priva di energie, fiducia, ottimismo. C'è un libro che racconta con obiettiva serenità questo universo. Si intitola Se la vita si rianima, edizione Ares, ed è scritto da un bravissimo giornalista, Giuseppe Baiocchi, e da un medico, la dottoressa Patrizia Fumagalli, che è in linea con noi. Dottoressa Fumagalli, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. Dottoressa, lei lavora nel reparto di neurorianimazione dell'ospedale di Lecco. È un reparto per casi difficili, in cui si arriva all'improvviso per un incidente, un trauma. Insomma, non è un reparto in cui si programma di andare. E questo credo che faccia la differenza. Sì, certo, l'ha detto lei. In effetti il mio reparto è un po' diverso da tutti gli altri. Di solito uno sceglie o comunque decide, programma di andare in ospedale. Da noi la gente si trova catapultata in un mondo completamente diverso quasi sempre all'improvviso. Il risultato è che la prima reazione può essere la più varia possibile. In effetti i pazienti di solito non se ne rendono conto, i familiari risultano storditi, frastornati, il tipo di reazione è la più varia possibile, a volte il mutismo, a volte la rabbia che si rivolge verso di noi, a volte proprio la sensazione di non voler essere lì, ecco. Certo, dottoressa Fumagalli, però nel vostro libro raccontate storie che dimostrano quanto la vicinanza dei familiari sia terapeutica, soprattutto per i casi in cui, come succede spesso nel reparto, nel suo reparto e in reparti simili al suo, la vita sembra sospesa ad un filo. Lei ci ha parlato del primo stordimento dei familiari che non accettano e quindi atteggiamenti più vari possibili, la relazione con il medico, tra il medico e il familiare è molto importante, poi capita qualcosa, dottoressa Fumagalli. Sì, di solito la premessa è che io poi lavoro in un reparto di neurorianimazione, che forse non ho precisato, per cui i pazienti da me arrivano incoscienti e i familiari all'inizio, come diceva lei, risultano storditi. Quello che accade spesso è che piano piano il confine, il limite si sposta sempre un po' più in là, quindi all'inizio sembra di non poter accettare la situazione, poi col passare dei giorni si diventa quasi dipendenti dal reparto, si vede il proprio familiare pieno di tubicini che all'inizio fanno paura e poi alla fine quando li togli fa paura toglierli, diventa come la coperta di Linus. D'altra parte nel libro si raccontano alcune storie dove effettivamente si vede che la presenza continua della famiglia accanto al malato ha sicuramente indotto una guarigione o comunque un miglioramento che probabilmente, devo dire probabilmente perché io la certezza non ce l'ho, non sarebbe stato così rapido. Ha una storia, dottoressa Fumagalli, che le è rimasta nel cuore? Ma io ricordo, forse nel libro abbiamo raccontato, delle storie che alla fine sono finite bene, devo dire che ci sono anche delle storie che finiscono male, è chiaro che il libro vuol dare una parola di speranza e quindi si raccontano le storie finite bene. Dottoressa Fumagalli, io la ringrazio per essere stata con noi, ricordo il titolo di questo bel libro, Se la vita si rianima, edizione Ares. Dottoressa, la lascio al suo lavoro e le auguro una buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. Pronto soccorso. Dai che oggi rimettiamo a posto un po' la nostra dieta. 824 0024, mettiamo sotto la lente di ingrandimento i grassi e gli zuccheri, cerchiamo di capire le funzioni e i limiti di questi macronutrienti e cerchiamo soprattutto di liberarli anche da tutti i luoghi comuni che li vogliono nemici della nostra salute. Il professor Dioguardi ci ha già spiegato che servono, anche i grassi che spesso sono demonizzati, servono ad esempio per portare in giro particolari vitamine che sono le vitamine liposolubili. Prof, ho detto bene? Benissimo, la vitamina D, la vitamina E, perché poi i prof bacchettano e bocciano. Allora, però vediamo che cosa ne sa di zuccheri e grassi un notissimo personaggio televisivo che invece senale oggi, invece che fare domande come il suo solito, darà delle risposte. In linea con noi abbiamo Amadeus. Ciao Amadeus. Ciao, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno professore, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senti Amadeus, nella tua dieta più grassi o più zuccheri? Ma guarda, io cerco di non farmi mancare né uno né l'altro, nel senso che non sono uno che fa diete, io non ho mai fatto una dieta nella mia vita perché mi renderebbe triste e non è che io sia sempre stato magro nella mia vita, sono stato anche un ragazzino a volte che è diventato un po' cicciottello. Morbido. Sì, proprio cicciottello, ma alle medie mi chiamavano bombetta, proprio perché ero bello in carne. Poi ho fatto sport e quello mi ha fatto dimagrire molto e ancora adesso che ho 47 anni, se posso un paio di volte alla settimana vado in palestra o vado a sciare o vado a cavallo. Ecco, diciamo che io non riesco a fare una dieta, ma... Se n'è andata Amadeus, abbiamo perso Amadeus, adesso lo richiamiamo. Professor Dioguardi, che lo recuperate, sì. Amadeus è saggissimo, è molto giusto compensare possibili, diciamo, libertà nell'alimentazione, sì, aumentando l'esercizio fisico. L'esercizio fisico fa consumare quello che noi introduciamo, ci pulisce. Ma io voglio chiederle una cosa. Noi bruciamo con l'esercizio fisico quello che mettiamo, ma in eccesso, no? Che non ci serve. Però io stavo pensando, se facciamo, diciamo che zuccheri, grassi, proteine fanno un po' questa miscela, questa benzina per il nostro corpo, se non è di buona qualità... È vero che la quantità fa la differenza, io brucio tutte le calorie in eccesso con l'attività sportiva, però devo anche mangiare bene, perché se no, se la benzina è cattiva, mi ingolfa il motore, si dice così? Nicoletta, è perfetto. Il problema è che dobbiamo intenderci cosa sia la qualità, perché mangiare carboidrati e grassi è fondamentale per mantenere integro il funzionamento dell'organismo, anche dei muscoli. L'atleta, certo, è uno che non può fare a meno dei grassi, attenzione, non solo deve mangiare carboidrati. È chiaro che le proteine hanno un ruolo fondamentale, senza proteine non si può vivere, in teoria senza zuccheri si può vivere, senza grassi si può vivere, ci sono alcuni grassi però che dobbiamo assolutamente introdurre perché noi non siamo capaci di sintetizzarli. Quindi... abbiamo ripescato il nostro Amadeus, che ti sei preso i complimenti del professor Dioguardi, perché ha detto lui fa attività sportiva, d'altra parte lui si è giocato questa carta, ma, sì, ma lo si vede anche che lui ha un fisico scolpito. Ma senti, ma tu sai scegliere bene oltre fare attività fisica? Ad esempio, contiene secondo te più grassi la mozzarella di bufala o il prosciutto crudo? No, beh, la mozzarella di bufala, però credetemi, la mozzarella di bufala che arriva da Caserta o da Battipaglia vale tutti i grassi del mondo, non si può rinunciare. Senti, Amadeus, tu nel tuo nuovo programma, parte proprio il 22 di febbraio, dovrei fare una magia a proposito di zuccheri, rendere zuccherine le suocere, perché con cuore di mamma dal lunedì al venerdì dovrai convincerle davvero, e quindi sarà una bella sfida. Pretendenti per le proprie figlie, quindi chissà se saranno delle suocere dolci. Intanto ho scoperto nelle prove che tutte le suocere sanno cucinare e pretendono che le ragazze, che come dire in qualche maniera devono far conoscere ai propri bambini, che di 25 anni devono saper cucinare, quindi vedi che alla fine le suocere non si preoccupano molto di grassi o di zuccheri, l'importante è che il figlio mangi bene anche se non c'è la mamma. Mangi bene anche senza la mamma, ma tu devi dire che il loro bambino deve fare un po' di sport, vero professor Dioguardi? E poi che le suocere poi a un certo punto tornano a casa loro. Ma io sono contenitore dello sport a qualsiasi età, dico sempre che da quando si è bambini alle persone che hanno 70 anni, se fanno sport l'ideale sarebbe anche stare, come dire, in luoghi belli, all'aria aperta, al mare, certo, o in montagna, eccetera, eccetera. Ma vivendo, ahimè, in città, quantomeno lo sport non deve mancare. Insomma, sarà che io vengo da una famiglia, insomma, che ha sempre praticato sport, anche perché quando pratichi sport ti puoi concedere anche la mozzarella di bufala. Io finisco, giusto, mi vado a fare un bel piatto di pasta, non ho nessun tipo di pentimento. Professor Dioguardi, voleva aggiungere un appunto prima di salutare Amadeus e andare ai mercati? Ah, che Amadeus ha perfettamente ragione. Vorrei aggiungere una piccola nota. Anzi, per le suocere? No, per le suocere preferisco non dire alcunché. ma viceversa, ha ragione Amadeus, e sottolineerei il fatto che più avanzano gli anni, più in realtà si ha bisogno di fare attività fisica. Quindi prepariamoci. Grazie Amadeus, in bocca al lupo. Grazie a te, grazie professore, arrivederci. Arrivederci. Qualcuno di voi, è probabile, sta seguendo in questi giorni una dieta, magari consigliata dal medico, ci auguriamo. Qualcuno di voi ha deciso di perdere peso e non mette lo zucchero nel caffè, o elimina la pasta a mezzogiorno. Magari non sempre i risultati si vedono. Oggi cerchiamo di capire perché. Parliamo infatti di zuccheri e di grassi insieme al professor Dioguardi. Abbiamo già spiegato la funzione di questi macronutrienti e abbiamo capito, professor Dioguardi, che c'è un problema di qualità e di quantità, quindi di grammi e di calorie, quindi di composizione. D'altronde la dieta equilibrata va costruita e abbiamo detto che questo equilibrio non ci viene proprio naturale. È esattamente così. Purtroppo bisogna metterci un pochettino di raziocinio, un po' di testa, stare un pochettino attenti, non abbandonarsi all'istinto. Vedi, Nicoletta, vorrei farti una domanda che non è facile. Secondo te fa più male, è una domanda paradossale per tutti gli ascoltatori, secondo te fa più male 50 grammi di fritto di calamari oppure 500 grammi di riso al vapore? Oppure, secondo te fa più male mangiare 50 grammi di pane o un bel grappolo d'uva che per inciso può arrivare a un chilo? Beh, la domanda è insomma paradossale, come diceva lei, perché abbiamo detto che è un problema di quantità, per cui mi faccio volentieri 50 grammi di fritto di calamari, che è poco e quindi mi appaga, non mi soddisfa tanto perché io ne mangerei almeno un 3 etti, mentre mezzo chilone di riso al vapore insomma, diventa difficile, insomma, anche da digerire, penso, no? E lo stesso per il grappolo d'uva, se lei mi dice, mi ha dato il suggerimento, può arrivare anche a un chilo rispetto ai 50 grammi di pane, che sono un piccolo panino. Esatto. Allora, il problema è proprio questo, cioè bisogna imparare a capire quanto di ogni alimento sia contenuto in quello che noi mangiamo. In effetti 500 grammi di riso sono una quantità mostruosa. Mm. Guarda, non è che il riso bollito è facilissimo da digerire. Sì. E contiene molti zuccheri. Ora, quando l'assorbimento degli zuccheri sia troppo rapido, il nostro corpo non ce la fa a smaltirli, e in questo caso lo zucchero diventa veramente un, tra virgolette, un tossico per il nostro metabolismo, cioè fa così fatica a mettere via gli zuccheri che non riesce a fare tante altre cose, e l'accumulo di zuccheri nelle cellule è una cosa che fa malissimo alle cellule. Questo non vuol dire che 5 grammi di zucchero nel caffè la mattina siano un veleno, ecco, questa è una cosa senza senso. Perché ad esempio ci scrive un ascoltatore che, a proposito di zucchero, che lui è Eddie da Prato: ho completamente tolto lo zucchero raffinato e di canna dalla mia dieta, mi sento una persona diversa, più energia, più lucidità e peso forma stabile, malto, miele, tanti cereali integrali, dite che lo zucchero è veleno, se non lo dite voi che siete dottori, grazie e complimenti. Lei è anche un professor, quindi non lo so, professor Dio guardi. Ma non è che essere professore ti renda migliore degli altri esseri umani. Ecco, però è molto difficile rispondere a questo signore, perché una piccola parte di verità c'è nel termine veleno. Noi la chiamiamo glicotossicità, però dire che 5 grammi di zucchero del caffè siano dannosissimi, ripeto, è una cosa esagerata. Certo è che ridurre la quantità dei carboidrati per la maggior parte degli individui è una cosa utile, perché ne mangiano troppi. Certo, quindi abolirli del tutto non va bene. Senta, però mi fa venire in mente, mangio quello che voglio, eccetera, non ho ancora sentito la sua puntata. Al mattino vado a fare un esame, glicemia alta, non alta, appena fuori dalla norma, facciamo invece che 110, che voi considerate il numero, no? Che va bene, 113-114. Ho mangiato sbagliato il giorno prima, ho un problema, faccio finta di niente, come mai? Allora, far finta di niente è sbagliatissimo. Un valore fuori dalla norma, anche di poco, è una cosa che sempre comunque deve richiamare attenzione, perché può essere un fatto puramente casuale legato al fatto, per esempio, che quella mattina, Nicoletta, sei andata di corsa a fare il prelievo. Già solo correre alza la glicemia. L'attività fisica fa in modo che il fegato produca zucchero, lo metta nel sangue per far funzionare i muscoli. Quindi può essere quello che noi chiamiamo un artefatto, quindi ripeterlo. Ma se si confermasse elevato, correre dal medico, perché può essere il segno che noi non abbiamo un buon funzionamento del metabolismo del glucosio. E questo è molto pericoloso, prodromico potenzialmente alla comparsa del diabete. Si corregge con la dieta? In parte, in molti casi sì, dimagrendo si sistema tutto, però è comunque qualcosa da non sottovalutare. Abbiamo Maria da Como e Francesca da Roma. Maria da Como, buongiorno. Buongiorno. Senta, io vorrei chiedere se è possibile sapere, se per non sentire i vuoti di stomaco tra un pasto e l'altro, è vero che la colazione del mattino deve essere più indirizzata verso le proteine anziché gli zuccheri, ossia pochi zuccheri e molte proteine? Ad esempio, uno cosa penserebbe di mangiare, Maria? Facciamo degli esempi mangerecci. No, latte, formaggio, oppure yogurt, e poi non saprei cosa, anziché appunto la classica brioche, biscotti, latte biscotti. No, grazie Maria, glielo chiedo perché noi abbiamo un po' preso la mania dei medici, che parliamo grassi, zuccheri, proteine, eccetera, e poi alla fine metabolizziamo questi concetti, ma non riusciamo poi a tradurli sulla tavola, professor Dioguardi, no? Perché già abbiamo visto che quando diciamo zuccheri dobbiamo dire anche carboidrati, e quindi non è solo lo zucchero bianco, ma è anche la pasta asciutta. Dei grassi abbiamo detto che non bisogna fare di ogni erba un fascio. Allora, Maria ci dice: a colazione, che cosa mangio per non arrivare a mezzogiorno con quella fame che ti mangeresti le gambe del tavolo, o smangiucchiare durante la giornata? Metto più proteine. Cosa vuol dire? Allora, intanto la domanda che ha posto la signora è molto complessa, perché bisogna capire che cosa significhi vuoto di stomaco. Pensate che per molte persone vuoto di stomaco significa mangiare fa passare il vuoto di stomaco, in realtà questi pazienti hanno una gastrite. In questi casi bisogna capire perché ci sia la gastrite, il famoso Helicobacter, e casomai curare quella. Ah, bravo, ci ha dato un'indicazione. Questi buchi nello stomaco tante volte non sono vera fame, mettiamola così. Primo punto. Secondo punto. In effetti mangiare carboidrati paradossalmente può dare una sazietà molto transitoria e addirittura scatenare la fame a distanza di poche ore. I motivi sono molto complessi, ha a che fare con la salita dell'insulina dopo i carboidrati, che viene seguita da una crisi ipoglicemica. Sì. E quindi tu finisci per continuare a mangiare per mantenere costante la glicemia. Anche qui le soluzioni sono abbastanza complesse. Devo ricordare che la dieta va calcolata su 24 ore, distribuita nella maniera più equilibrata possibile. In effetti mangiare un po' di proteine al mattino, per esempio un latte magro, che è più ricco di proteine e meno di grassi, perché è magro, quindi è una cosa che può essere utile per la sazietà. Però fare anche un mini pasto a metà della mattina e a metà del pomeriggio, mantenendo uguale le calorie, cioè riducendo un po' quello che si mangia a mezzogiorno alla sera, può essere utile. Ad esempio, lei a metà mattina cosa mangia? Oggi l'ha saltato perché è venuto qui. Ma quindi non è un grosso problema. Io a metà mattina non mangio niente, purtroppo non ho tempo. Però per esempio a mezzogiorno mangiarsi un panino con la bresaola e due fette di pomodoro è una cosa abbastanza equilibrata. Sono carboidrati, vitamine, pomodoro, sì, e facciamo proteine. L'esempio di chi è sempre di corsa. Poi per fortuna in Italia c'è ancora la buona abitudine di tornare a casa e sedersi a tavola, un'abitudine che sta sempre diventando, no, più rara ma che andrebbe coltivata. Io volevo dire che anche mangiare il panino al bar non necessariamente è una cosa lontana dal salutare. Certo che se ti mangi il panino con dentro il patè, il salume e quattro etti di maionese, allora ti cerchi guai. Francesca da Roma, buongiorno. Poi andiamo da Gemma da Frosinone. Francesca, buongiorno e benvenuta. Grazie. Io volevo sapere, nelle ultime analisi del sangue è risultato il valore dei trigliceridi e dei globuli bianchi leggermente basso rispetto a quello standard, e volevo sapere se questo può essere collegato a un problema di amenorrea secondario. Grazie Francesca. Professore, trigliceridi bassi, meglio bassi che alti? Sì, attenzione, trigliceridi sotto la norma e globuli bianchi bassi, questo può avere a che fare con un severo problema di introduzione calorica globale. La menorrea va interpretata da questo punto di vista. L'organismo spesso si difende non facendo perdere sangue, certo, proprio quando non è equilibrata l'introduzione di carboidrati, grassi e proteine. Quindi io penso che questa signora abbia bisogno in primis di far valutare di mangiare in maniera sufficiente dal punto di vista quantitativo per l'attività fisica, ad esempio, che abbia. Le ballerine tipicamente hanno questo tipo di problemi perché consumano tanto e per rimanere magre poco. Non mangiano abbastanza. Quindi a Francesca, dobbiamo dire di insistere un pochino più sulla dieta. Dal medico, insomma, farsi dare un occhio. Gemma da Frosinone, la saluto. Gemma, buongiorno. Professore, buongiorno, e buongiorno a lei. Grazie. Gemma, eccoci. Sì. Allora, premetto che con la tiroide io sono a posto, nel senso che sto bene. Ho intrapreso una dieta da circa un mese. Come va? E va che in un mese, mangiando, prendendo caffè con 2 fette biscottate a colazione con il dolcificante, quindi neanche lo zucchero, a pranzo e cena proteine e verdura con pochissimo pane, sono scesa 0,5 chilo in un mese, facendo diciamo attività fisica 4 volte a settimana, almeno 2 volte acqua gym e 2 volte camminare. Ma professor Dioguardi, 0,5 chilo con tutta sta fatica? Allora, com'è possibile, Gemma? Anch'io dico, ma professore? Allora, intanto bisogna capire quanta attività fisica la signora facesse prima e facesse adesso, perché bisogna aumentare l'attività fisica per perdere peso. Se il peso precedente era mantenuto con l'attività fisica simile, è chiaro, aveva stabilito un equilibrio che non viene alterato eccessivamente. Ecco, poi bisogna capire che anche le proteine non è che non abbiano calorie, e alcune proteine, cioè bisogna intenderci, la pasta per esempio non è che non contenga proteine, contiene l'8, 7, 8, certe paste anche il 9% di proteine, e l'introduzione calorica può essere molto difficile da valutare con le proteine. Per esempio il filetto può essere molto ricco di grassi, e quindi il problema è di quante proteine si mangiano e l'apporto calorico totale. Ma c'è una cosa che il nostro organismo fa quando noi riduciamo le calorie: dopo 10 giorni l'intestino si modifica e aumenta la sua efficienza nell'assorbire quello che mangiamo, cioè il corpo non vuole perdere peso. In questo caso ci sono delle tecniche che devono essere utilizzate, ci sono dei, tra virgolette, trucchi per ingannarlo. Proviamo a dirne un paio di trucchetti, ecco, per questo intestino. Uno dei trucchi che ci frega, quindi. L'intestino è nato per mantenerci vivi e quindi noi abbiamo... Diamo 2 trucchini a Gemma, perché dopo 1 mese, 0,5 chilo, le diete drastiche non vanno bene, vero? Esatto. Chi più velocemente perde, tanto per tirare su Gemma, più velocemente acquista. No, e poi soprattutto c'è da chiedersi se la signora Gemma di questo 0,5 chilo abbia perso 0,5 chilo di grassi, ma quanti muscoli abbia messo su? Gemma, perché è muscoli... tutto un muscolo lei adesso, oppure no? Non mi sembra. Gemma, adesso ci facciamo dare il trucchetto. Poi volevo chiedere una cosa sul dolcificante. Va bene. Allora, il trucchetto per fregare l'intestino, che si adagia Allora, fregare l'intestino non è che non mi piaccia molto, poverino, no. Ecco. E lì per salvarci, per 7 milioni d'anni ci ha fatto sopravvivere alla fame, quindi è molto efficiente da questo punto di vista. Sì, questo signore intestino, insomma. Ecco, allora, uno dei trucchi, per esempio, è imparare a usare 2 diete. Per esempio, una dieta molto restrittiva per 1 settimana. Sì. Molto restrittiva vuol dire, mi raccomando, fondamentale, pagare tutti i giorni il debito alle proteine, perché senza di queste non si vive, sì, ma ridurre davvero carboidrati e grassi, introdurli in piccola quantità, la minima sufficiente, ma pagare il debito alle proteine. E poi però fare 1 settimana in cui si torna a mangiare una quantità ridotta, non so, 1.400 o 1.600 calorie, adesso dipende dal peso di partenza della signora, ma che contenga in maniera, tra virgolette, più normale, carboidrati, proteine e lipidi. Quindi mangiare un po' di pasta a mezzogiorno, la sera se vuole mangiare le proteine con la verdura, fare una dieta cosiddetta inappropriatamente dissociata, però introdurre 1.600 calorie, ma notare che l'intestino non aumenta la sua efficienza. E poi ricominciare con un'altra settimana di dieta molto stretta, non so, 600, 700, 800 calorie al giorno, che è molto poco, mantenendo un'attività fisica. Mi raccomando, tantissima acqua, errore che si fa spesso con la dieta, non si beve abbastanza acqua. E poi alimenti integrali. E controllare gli esami del sangue, perché bisogna per prima cosa essere sicuri che la dieta non ci faccia mancare qualcosa, certo, il ferro, le vitamine. Allora, lo zucchero, sostitutivi dello zucchero. Molti ascoltatori mi dicono, ma il fruttosio ad esempio va bene al posto dello zucchero? Allora, il fruttosio è uno zucchero. Esattamente come il saccarosio, c'è soltanto una molecola delle due che compongono la struttura che è leggermente diversa. Purtroppo il fruttosio è fra gli zuccheri alimentari, e questo ti prego Nicoletta, ti ricordi che ti dissi che non dobbiamo mai dimenticarci che i carboidrati, cioè gli zuccheri, sono contenuti anche nella frutta? Sì. Bene. Purtroppo il fruttosio è lo zucchero che più facilmente va a finire in trigliceridi, quindi molte ipertrigliceridemie sono legate a un'eccessiva introduzione di fruttosio. Sì. Andiamo da Christian, che ci chiama da Verona. Christian, buongiorno. Buongiorno, io volevo volevo fare una domanda al professore relativa a questa cosa. Mi è successo molto, molto spesso che, soprattutto nell'ambito delle palestre, delle operazioni atletiche, propongono delle diete chiamate metabolica. È una dieta in cui per l'arco dei 6 giorni, dal lunedì al sabato, viene completamente eliminato qualsiasi tipo di carboidrato e c'è un carico di carboidrati fatto la domenica, cioè il 7° giorno, però per tutto l'arco della settimana c'è il completo scarico di carboidrati. Volevo, è un carico di proteine molto elevato. Volevo capire, secondo lei, che danni può portare questa dieta, perché comunque mancando totalmente una, certo, una componente fondamentale come i carboidrati. Professor Dioguardi, abbiamo iniziato parlando di equilibrio, che è difficile. Chiudiamo con questa telefonata di Christian, che ci propone uno schema di dieta che dell'equilibrio a poco. Esatto, e infatti queste sono diete, questo tipo schema dietario viene chiamato chetogenica, perché tu sei costretto a mobilizzare enormi quantità di grassi al tessuto adiposo, e i grassi non è che evaporino dal sangue, devono essere eliminati. Quindi sono diete che vanno fatte sotto strettissimo controllo medico, sono efficaci per una perdita di peso molto rapida. Il problema è che i grassi devi essere sicuro di bruciarli, perché altrimenti si appiccicano alla parete delle arterie, come delle ventosine, e fanno gravi danni. Sì. Professor Dioguardi, io la ringrazio per essere stato con noi per questo viaggio alla scoperta di zuccheri e grassi, che sono certa ci aiuterà a comporre la nostra dieta in modo più vario ed equilibrato, e questo è già un bel passo avanti. Grazie professore. Arrivederci, grazie a voi. E in chiusura parliamo di donazione di organi. Si indicherà sulla carta d'identità se si vuole essere o meno donatori di organi, e quanto prevede un comma del maxi emendamento al decreto mille proroghe sul quale il governo ieri ha posto la fiducia. Noi ne parliamo con il dottor Nanni Costa, che è direttore del Centro Nazionale Trapianti dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottor Nanni Costa, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Ci spiega esattamente che cosa cambierà, se cambierà? Il testo che noi abbiamo visto dell'emendamento dice semplicemente che sarà obbligatorio segnare sulla avere sulla propria carta d'identità una domanda se si vogliono o no donare gli organi dopo la propria morte. Se rimarrà così, perché stiamo ancora parlando di un emendamento che deve essere ancora, anche se probabilmente lo sarà, definitivamente approvato, molto probabilmente le persone che hanno già espresso sinora in vita la loro volontà alla donazione degli organi dovranno semplicemente ribadire questa volontà davanti all'ufficiale di stato civile nel momento in cui consegnerà la carta d'identità. Chi vorrà esprimere una opposizione lo farà in quel momento. Quindi non prevediamo sotto questo aspetto un cambiamento. Ovviamente il numero delle persone che fino adesso ha espresso la propria volontà in Italia non è elevato, noi stimiamo che sia fra i 3 e i 5 milioni di persone. Ovviamente questo numero progressivamente, di mano in mano che verranno fatte queste nuove carte d'identità che avranno questa annotazione, aumenterà. Grazie dottor Nanni Costa per essere stato con noi, buona giornata. Arrivederci. E buona giornata a voi che ci avete seguito, appuntamento come sempre domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone.